Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, riprendiamo i nostri viaggi virtuali con uno che oggi ci porterà in due terre sconfinate. La prima è quella degli Stati Uniti, sulle tracce letterarie di uno scrittore americano che merita riscoprire, Hamblin Garland, vissuto tra il 1860 e il 1940, noto nel suo paese soprattutto per i racconti ambientati nell'America profonda. Garland era nato nel Wisconsin, poi era andato nel Midwest per finire a Boston, dove era diventato insegnante e si era affermato come narratore. E Garland è uno dei cantori della dura vita dei pionieri. Il suo stile letterario fu definito dallo stesso autore veritismo e si sviluppò negli stessi anni in cui in Italia si diffondeva il verismo. Il veritismo di Garland era condito di un realismo socialmente consapevole con elementi tipici della letteratura americana, quelli che badano di più all'individualismo e al realismo. Uno dei suoi capolavori è la raccolta di racconti Man Traveled Road, di cui di editore pubblica, dopo i racconti del Mississippi, i racconti del Dakota, 306 pagine, 14,90 euro, tradotti da Sara Inga. E qui di racconti ne troveremo 6, particolarmente originali, perché, come spiega l'autore stesso, all'ambientazione tipica delle novelle precedenti, quella agreste, si aggiunge qui un nuovo punto di vista determinato dall'interessante avanzare delle città, così scrisse l'autore. Quindi troviamo due ambienti diversi, quello della campagna e quello della città nascente, ambienti nei quali si esprimono differenze, scrisse, che poco hanno a che fare con questioni paesaggistiche, differenze che si stemperano nel sentimento più nobile, e cioè l'amore che, come scrisse Garland, è in grado di trasformare una desolata prateria nel più romantico dei paradisi. Una sintesi efficace della capacità di Garland di cogliere la condizione umana all'interno di una natura grandiosa in procinto di essere modificata dall'uomo, troviamo in queste righe tratte dal racconto Zio Ethan Ripley, che è una persona che giudicava le qualità dei suoi fratelli dal modo in cui questi siedono sul carro. Zio Ethan si domandava chi fosse quell'uomo e perché girasse tanto attorno alla questione senza venirne al punto. Era chiaro che volesse qualcosa da lui, anche per una persona con la testa tra le nuvole come Ethan Ripley. L'uomo nel carro sembrava non cogliere la grandezza frusciante di quel mare color oro. Le spighe danzavano assieme al ritmo di una sinfonia divina, a cui gli uomini erano ormai sordi. Il rumore delle macchine, dei treni, della modernità, aveva reso meno sensibile l'orecchio umano a quella musica celeste. Ma le piante non erano ancora frastornate, non avevano scelto di uscire fuori dal dominio della natura, e così erano rimaste parte di un tutto sublime e pittoresco che gli uomini potevano solo osservare da fuori, senza farne più parte. Prometeo era potente e allettante, ma in quell'uomo non ardeva alcun fuoco. Il suo interesse era completamente focalizzato sul dissimulare le sue intenzioni al vecchio agricoltore. Ma nel Dakota l'avanzare della modernità è segnata anche dall'avanzata di una nuova attività, quella bancaria, opera di pionieri, anche in questo senso, non sempre capacissimi, come il simpatico Jim Sanford, protagonista dell'ultimo racconto, La moglie di un uomo buono, la moglie che deciderà di salvare il marito, andato a gambe all'aria, dopo questo dialogo. Ma che ne è stato del denaro, di tutto il denaro depositato dai clienti? Sfumato anche quello, con tutto il resto. Che cosa ne hai fatto? Io, l'ho investito e l'ho perduto. James Gordon Sanford, esclamò lei, cercando di capire. Hai preso i soldi della gente di questo paese per investirli in operazioni fallimentari? Ne avevamo parlato e tu non mi hai dato ascolto. È giusto questo? Non è un caso di niente di straordinario. Un caso di appropriazione indebita, come se ne leggono sui giornali. Il tono della sua voce era disinvolto, ma evitava lo sguardo dei begli occhi grigi della moglie. Ma questo è un furto, no? Lo fissò sbalordita dal suo atteggiamento di incosciente leggerezza. Lo è adesso, perché ho perso. Se avessi vinto, sarebbe stata un'accorta operazione finanziaria. Ben altra tempra di banchiere troviamo nel libro di Giorgio Chiarva, che è architetto, imprenditore e giornalista, nonché autore di Amedeo Peter Giannini, il banchiere galantuomo, pubblicato da Francesco Brioschi Editori, 440 pagine, 18 euro. Quello di Giannini è un nome mitico nella finanza americana. Giannini era il figlio di emigrati liguri ed era nato quasi esattamente 150 anni fa, il 6 maggio del 1870 a San Francisco, dove avrebbe fondato la Bank of Italy, una banca ad azionariato diffuso per prestare denaro a chi sarebbe stato respinto dalle altre banche per mancanza di garanzia. Amedeo Peter, detto Happy, era figlio di un emigrato appunto che aveva fatto rapidamente fortuna, ma che sarebbe stato ucciso per un dollaro di paga da un suo bracciante sotto gli occhi del figlio ragazzino. L'azienda del padre passa sotto la guida del nuovo marito della madre, molto legato peraltro ad Amedeo, il quale crescendo orienta il business familiare dalla produzione al commercio degli ortaggi. Amedeo poi sposerà la figlia di un banchiere che lo indirizza a prendere le redini dell'azienda creditizia, ma il suo concetto di banca etica e popolare non era molto gradito agli altri azionisti e quindi Giannini lascia la banca per fondarne nel 1904 una sua, la Bank of Italy, appunto la prima banca popolare ad azionariato diffuso. La prova del fuoco della banca arrivò ben presto col grande terremoto del 1906 di San Francisco, dopo il quale Giannini capisce che senza soldi non ci sarebbe stata ripresa. La cassaforte della banca era salva, di notte la svuota, mette in salvo i lingotti e il giorno dopo monta una bancarella volante al porto per prestare i soldi a chi poteva garantirgli la restituzione solo grazie al proprio lavoro. L'esperimento ha successo, la banca si consolida, affronta con lo stesso spirito la crisi del 29. E come avete sentito si parla di temi molto attuali in tempi in cui si invoca la distribuzione di liquidità quasi con l'elicottero. Giannini fu l'unico banchiere a riaprire subito dopo il terremoto di San Francisco e a questo attrasse ancora più clienti. In pochi mesi il quartiere dove erano stati concentrati gli aiuti era rinato e la Bank of Italy fu riconosciuta come protagonista dell'autentica ripresa della città. Prima del terremoto la banca capitalizzava $1 milione in asset patrimoniali, alla fine del 1906 il valore era arrivato a 1,9 milioni e i depositi erano passati da 700.000 a $1,3 milioni. La strada di Giannini era segnata e Chiarva ce la fa ripercorrere con questo che è una vera e propria biografia romanzata ma assai attentamente documentata, che ci fa scoprire altre sorprendenti intuizioni imprenditoriali di Giannini, come questa dimostrata nell'incontro con un giovane e squattrinato cliente. Disney tornò molti mesi dopo con una cartella di disegni piuttosto voluminosa. Da quando ci siamo incontrati, ho lavorato solo per seguire i suoi consigli e ho preparato 3 proposte. Prese i disegni e raccontò la prima favola. Amadeo era perplesso. Al secondo tentativo, Disney tirò fuori il disegno di Biancaneve, dei nani e della regina cattiva. «Questa è Biancaneve e i 7 nani. Conosco la favola. Mi faccia vedere. Quanto potrebbe durare?» «Non ne ho idea. Mezz'ora? 40 minuti?» «No, deve durare molto di più. Deve fare in modo che si percepisca la felicità di Biancaneve e della vita in comune coi nani. La tristezza della maledizione, la ricerca del salvataggio e alla fine la grande gioia dell'amore. Io credo che un'ora sia appena sufficiente. E ci vuole anche una musica idonea. È un bel sogno, ma non so se riuscirò a realizzarlo. E i 7 nani devono cantare». Disney era in imbarazzo. Il banchiere stava fantasticando ad alta voce. Però era un buon segno. «Lei mi porti i bozzetti con la storia riscritta e al resto penserò io. Non si preoccupi». Per realizzare il film di 1 ora e 20 ci vollero 8 anni e $1,5 milioni che la Bank of Italy fornì in buona parte, facendo da capofila un consorzio creato appositamente. Biancaneve e i 7 nani venne proiettato per la prima volta nel dicembre del 1937 al Cathay Circle Theater di Los Angeles, ottenendo un successo strepitoso. Una settimana dopo, Amadeo tornò a casa col New York Times. Il titolo in prima pagina era «Grazie mille, signor Disney». Un anno dopo, Walt Disney vinse l'Oscar. E un altro mito letterario americano, G.D. Salinger, è l'autore di un solo libro che è diventato un classico del Novecento, Il giovane Holden, che venne pubblicato nel 1951, prima che l'autore si rinchiudesse in una lunghissima autoquarantena che sarebbe durato fino alla morte, caduta 10 anni fa. Il suo capolavoro è pubblicato da Einaudi in italiano con la traduzione di Matteo Colombo, 252 pagine, 12 euro. E su Salinger e sul libro di Enrico De Aglio, che viene pubblicato in una collana di Marsilio dedicata a un scrittore italiano che dialoga con un libro al quale questo autore è particolarmente caro. E in questo caso De Aglio scrive L'ultima moglie di G.D. Salinger, 122 pagine, 12 euro. Qui troviamo all'opera un agente dell'FBI specializzato in crimini letterari che incrocia un professore della New York University tra i pochi che erano riusciti ad avere dei contatti con Salinger, assieme a una ragazza che potrebbe essere diventata una spia russa. Ne esce una ricostruzione del lunghissimo isolamento dello scrittore, intessuto di episodi quali la partecipazione di Salinger giovane soldato americano alla liberazione del lager di Dachau, e coincidenze sorprendenti come il fatto che proprio il giovane Holden fosse il mito letterario dell'assassinio di John Lennon. Una fantasia scherzetto definisce l'autore questo suo libro, che naturalmente precisa vuole immaginare una storia dei nostri tempi con FBI, Putin, Trump, la ricerca del grande segreto dello scrittore recluso. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di viaggi letterari e virtuali, e allora vi segnalo l'Atlante delle avventure dei viaggi per terra e per mare, con brani scelti dalle opere del capitano cavalier Emilio Salgari. Questo è il titolo integrale del libro curato da Anselmo Roveda e illustrato da Marco Paci per EDT, 50 pagine, 19,50 euro, che ci presenta una scelta delle sorprendenti e incantate mete frutto della fantasia del grande Salgari. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Aiutiamo Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te, e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dal Dakota ci trasferiamo alla sterminata vastità della Russia, anzi dell'Unione Sovietica, perché in periodo staliniano si svolge il libro di Frank Westerman, che è uno scrittore olandese, autore di Ingegneri di anime, pubblicato da Iperborea, tradotto da Franco Paris, 384 pagine, 18 euro. L'autore, oltre che scrittore, è stato anche giornalista d'inchiesta, ha esercitato questa sua professione per vari anni a Belgrado e a Mosca, dopo essersi formato come ingegnere agricolo tropicale. E anche in questo libro che vi presento si manifesta un curioso mélange di generi. Troviamo un lungo reportage giornalistico, la ricostruzione storica sul periodo staliniano, digressioni di carattere geografico, naturalistico, idrologico. Ne esce un libro per certi versi affascinante, centrato sulla dimensione esaltata del totalitarismo, sul rapporto tra intellettuali e potere, sulla smisurata ambizione di Stalin. Era stato lui infatti a definire ingegneri di anime gli scrittori, in un'improvvisa comparsa a una riunione convocata da quello che era allora, prima del declino politico e della morte, il nume tutelare della cultura sovietica, cioè Maxim Gorky. Una sera convoca appunto tutti gli scrittori il 26 ottobre del 1932 e all'improvviso compare anche Stalin che dopo cena e libagioni varie esprime la propria convinzione sul ruolo degli scrittori dicendo loro: l'uomo è trasformato dalla vita e voi dovete aiutarlo nella trasformazione della sua anima. La produzione di anime umane è importante, per questo brindo a voi scrittori, perché siete ingegneri di anime. E questi ingegneri avranno modo di mettersi alla prova cantando, secondo i dettami del realismo socialista messi a punto da Zdanov, che pure qui troveremo. Cantando, dicevo, le opere grandiose che il dittatore vuole realizzare, in particolare la costruzione di un complesso industriale sul Mar Caspio, in una località nemmeno registrata sulle mappe, e di un canale scavato a mano dai prigionieri del Gulag per collegare il Volga al Mar Baltico. Westermann ricostruisce queste vicende, in particolare quella di uno scrittore che aveva dedicato una specie di poema a questa impresa, Konstantin Paustowski, il cui libro diventò una sorta di simbolo dell'ortodossia letteraria ai tempi appunto di Stalin. E i vari fili che si intrecciano non fanno perdere di vista il senso complessivo della narrazione di Westermann, della quale vi propongo queste righe relative al culto della personalità di Stalin da parte di molti intellettuali non sovietici, espressi negli stessi mesi in cui il dittatore sterminava gli scrittori russi sospettati di tradimento. Mentre la sala delle colonne si trasforma di nuovo in un'arena di giustizia, Stalin fa stampare un disco con il suo discorso sulla nuova Costituzione dell'URSS. Trova ancora seguaci, in patria e all'estero, pronti a sostenere che l'Unione Sovietica è il massimo esempio di Stato di diritto. Louis Aragon si chiede se alla nuova Costituzione staliniana non spetti il primo posto fra i tesori preziosi della cultura umana, prima delle opere regali di Shakespeare, Rimbaud, Goethe e Pushkin. Parla di pagine splendide sul lavoro e la gioia di 160 milioni di persone. Simultaneamente all'introduzione della nuova Costituzione, Stalin dichiara che dopo aver percorso tutte le tappe prescritte da Marx, l'URSS, nel memorabile anno 1936, è il primo paese al mondo ad aver raggiunto lo stadio del socialismo. Bisogna festeggiare. Di fronte al mausoleo di Lenin, sulla facciata dei grandi magazzini di Stato GUM, il capo del Cremlino fa apporre dei pannelli enormi recanti una lettera ciascuno. I proletari incaricati di questo compito lavorano con accanimento e quando hanno finito compare la scritta: «La vita è diventata più bella». Dal Dakota e dalla Russia andiamo invece a una città affascinante, enorme e difficile, Rio de Janeiro, nella quale si svolge il libro di una celebre scrittrice turca, Asli Erdogan, della quale questo è il secondo libro, considerato uno dei suoi più importanti, pubblicato nel 1998 e che arriva ora in Italia grazie a Garzanti. Si intitola La città del mantello rosso, è tradotto da Julian Saldo, 152 pagine, 17 euro. Erdogan, come ricorderete, è un'autrice molto importante. Proprio poche settimane fa è stata prosciolta da pesanti imputazioni, compreso il coinvolgimento con movimenti terroristici per le quali imputazioni rischiava pene fino a 10 anni. Già aveva subito 132 giorni di prigionia per la collaborazione con un giornale filo-curdo e per la partecipazione a manifestazioni contro il governo del suo omonimo, ma non parente, Erdogan. La scrittrice adesso vive in esilio in Germania e questo romanzo è la cronaca di una coraggiosa immersione di una donna in Rio de Janeiro, dove la protagonista arriva per fare l'insegnante di inglese. Si chiama Osgur, che vuol dire libera. E la sua narrazione in prima persona si intreccia con quella di una voce narrante. Quest'ultima osserva Özgür e ce ne racconta le reazioni dinanzi all'immensa città. La protagonista esprime i suoi sentimenti dinanzi a una realtà ben più complessa di quella che si immaginava. Non è certo una Rio agiografica quella che ci viene presentata. Come dice la stessa scrittrice, quello che ella vuole raccontare è un labirinto fondato su più di due dimensioni, o meglio, una serie di labirinti l'uno dentro l'altro, nel tempo e nello spazio, pieni di sbarramenti, vicoli ciechi, stanze segrete, echi spaventosi, di vincolamenti, incerti presagi. Così la scrittrice. Naturalmente l'impatto con la realtà di violenza, miseria, ma anche maestosa bellezza sarà decisivo sulla protagonista. E sentiamo dal libro le righe dedicate al richiamo sempre ricercato alla sua città, a Istanbul, che pure Rio può ispirare. Alla fine del muro di una delle ville protette con vetri rotti e fili elettrici, Villa Blu, si trovava quello che per Özgür rappresentava il punto Istanbul. A ogni fermata provvisoria della sua vita da migrante, in ogni porto in cui si rifugiava, trovava oppure inventava il suo punto Istanbul. Posti che, guardati dal giusto punto di vista, alla giusta luce e senza dubbio nel giusto stato d'animo, offrivano un'immagine che ricordava Istanbul, con le sue spiagge separate da precipizi su cui volavano le aquile, i suoi golfi intrecciati come fiumi amazzonici e contorti come serpenti, le sue rocce selvagge che spezzavano la linea d'orizzonte, la sua foresta sconfinata che pareva una gigantesca rete da pesca gettata sulla città. Senza alcun dubbio, Rio non somigliava a Istanbul. Era dotata di una bellezza stordente che amava le vette esagerate, le contraddizioni, la smisuratezza. Precipitava spietatamente addosso alle persone, le rendeva ubriache, le stringeva in una morsa. Possedeva la forza esoterica delle spaventose maschere africane. La città in cui era nata e cresciuta, invece, era come un braccialetto d'antiquariato, argento tempestato di ametiste. Quieta, elegante, orgogliosa, inaccessibile, vaporosa. E adesso scocca l'ora del classico. Il mattone. Questa settimana ci segnala un bel classico di tante pagine da leggere o rileggere ancora in questi giorni di calma, Marina Valensise, giornalista e scrittrice. Il mattone, che mattone non è, di cui raccomando la lettura, è La recherche du temps perdu. Il grande romanzo composto da 7 parti, scritto da Marcel Proust tra il 1906 e il 1922. Sono 7 parti che sono stati pubblicati in 15 volumi nel corso di 10 anni ed è una lettura fantastica. Si inizia dalla parte di Swann, la seconda parte si intitola All'ombra delle fanciulle in fiore, poi ci sono i Guermantes, poi c'è Sodoma e Gomorra, La prigioniera, Albertine disparu e Il tempo ritrovato. E leggere Proust è una grande avventura, è un libro sensazionale perché è un libro dove attraverso la storia, la descrizione delle vicende di mezzo secolo, dal 1840 al 1915, si descrive in effetti un prisma di sensazioni, di emozioni, il flusso dei ricordi, le ondate di emozioni come il desiderio, la gelosia, l'euforia davanti all'arte. C'è un viatico che vi può accompagnare nella scoperta e nella lettura di Proust, e ve lo raccomando perché lo sto citando, sono le lezioni di letteratura di Vladimir Nabokov, dove c'è appunto un capitolo dedicato a Marcel Proust e dove Nabokov cita la definizione che Jean Cocteau diede dell'opera di Marcel Proust. Scrisse Jean Cocteau: è una miniatura gigantesca piena di miraggi, di giardini sovrapposti, di giochi condotti tra spazio e tempo. È in realtà non solo il racconto delle avventure mentali, delle avventure emotive, delle sensazioni, la descrizione soprattutto della complessità della vita umana, della complessità della rappresentazione, dove ogni cosa rinvia a un'immagine nascosta, a un'immagine che verrà, a un'immagine futura, ma è soprattutto un immenso prisma che ha definito la grandezza del romanzo nel XX secolo e che permette al romanzo, questa narrazione abnorme, senza limiti, senza definizioni, senza confini, di rifrangere e rifrangendo di creare un mondo in retrospettiva. È una lettura vincente che vi consiglio, è una lettura assolutamente magnetica, quasi ipnotica. C'è una bella traduzione in italiano di Giovanni Rabboni nell'edizione dei Meridiani di Mondadori, con le note di Daria Galateria e di Alberto Beretta, ma soprattutto se potete, vi consiglio di leggerla nell'edizione francese. E approfittiamo della presenza di Marina Valensise, che è anche amministratore delegato dell'Indala, che organizza ogni anno le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, per chiederle che cosa ne sarà quest'anno della stagione al Teatro Greco. La stagione dell'Inda quest'anno è una stagione sub iudice, come dicono gli antichi, perché siamo legati tutti all'evoluzione del coronavirus. Abbiamo innanzitutto rinviato l'inizio delle rappresentazioni al 21 agosto e dunque per la prima volta in 105 anni di vita le rappresentazioni dell'Inda non avverranno in primavera ma alla fine dell'estate, alla fine d'agosto, alla fine di settembre. Quest'anno sono in programma tre spettacoli, Le Baccanti e l'Ifigenia in Tauride di Euripide e Le Nuvole di Aristofane. La regia del primo delle Baccanti è del fondatore della Fura del Paus, Carlos Padrissa. La seconda, l'Ifigenia in Tauride, sarà affidata a Jacopo Gassman, mentre Le Nuvole di Aristofane avranno come protagonisti Paolo e Luca. Il problema naturalmente è se riusciremo a mantenere fede al nostro programma e se saremo autorizzati dall'Istituto Superiore della Sanità a accogliere 5.000 spettatori nel Teatro Greco di Siracusa. Per ogni evenienza noi abbiamo organizzato anche una stagione a forma di prologo, e cioè stiamo appunto allestendo il calendario per mantenere viva la stagione dalla fine di giugno alla fine di luglio, con 5 monologhi affidati a grandi attori di teatro e non, che dovranno essere destinati a tener viva l'attenzione e soprattutto mantenere la speranza per la città di Siracusa e per tutta la comunità del teatro greco. E l'opera segnalata da Marina Valensise di Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, è pubblicata da Mondadori, 2058 pagine, 32 euro. Poi c'è un'edizione di Newton Compton curata da Paolo Pinto e Giuseppe Grasso che costa 14,90 euro. E per chi voglia seguire il consiglio di leggere l'edizione originaria in francese, segnalo il cofanetto che è stato da poco pubblicato in 4 volumi dalla Bibliothèque della Pléiade, 7408 pagine, 271 euro. Il volume di Vladimir Nabokov, Lezioni di letteratura, invece pubblicato da Adelphi, tradotto da Franca Pece, costa 26 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.